senso alla sua rilevanza come giustificazione del potere e del suo esercizio, invero con modalità differenti, con differenti richiami emotivo-sentimentali e polemico-critici che caratterizzano il leader in regime rappresentativo parlamentare e le differenziano dalla figura del dittatore con richiami di particolari valori di tradizione, di stirpe e con nomi dalle connotazioni nazionali quali quelli del Führer, Duce, Caudillo e simili. Trotsky caratterizzava Lenin, il leader della dittatura del proletariato, per la sua capacità di pensare e di sentire per le masse e con le masse, capacità, diceva il suo ammiratore, che gli era propria in somma misura e in vero specialmente quando si delineava una grande svolta politica. Ed il tema della leadership è largamente trattato nell'interpretazione storico-sociologiche a cui inclina la cultura interdisciplinare d'oggi. Ad Alcide De Gasperi fu riconosciuta questa base di consenso nella sua opera di direzione e stimolo della ricostruzione postbellica di economia, organizzazione statale, vita sociale. Più lentamente perché poi eventualmente chiederanno la traduzione di qualche passo, ma se parli lentamente cercherò. Grazie molte. E dai giudizi di storici partecipi di tale vicenda, amici in Concordia Discourse, come Gino Giordani, che lo presentava come il ricostruttore dell'Italia postbellica, di avversari estimatori, quali Luigi Salvatorelli, che vi ritrovava la coscienza dell'uomo di governo nutrita del senso dello Stato e della nazione, dall'analisi sottilmente simpatetica di Leo Valiani, si è via via arrivati a interpretazioni ideologico-classiste come quella di Franco De Felice nella recensione al recente volume di Pietro Scoppola in Studi Storici. Per questo il consenso riconosciuto a De Gasperi merita un'analisi che è insieme un tentativo di interpretare la ricostruzione italiana 1944-45 nel gioco delle forze politiche e sindacali, dei sentimenti, dei risentimenti, delle aspettative e dei condizionamenti che si presentarono nella situazione interna e in quella internazionale di quegli anni. In Alcide De Gasperi concorrevano molteplici elementi destinati ad assicurargli il consenso nella sua azione politica degli anni 1944-52. Già la sua formazione e la sua esperienza trentina di organizzatore, di giornalista, di politico, non solo nell'ambito locale, ma in quella statale e per di più di uno Stato come l'impero austro-ungarico, in cui concorrevano sollecitazioni centralistiche e tenaci tradizioni regionali, lo qualificavano a portavoce autorevole di esigenze molteplici, esigenze che erano da riconoscere ma anche da comporre e conciliare in una veduta del fattibile condizionato. Quindi la sua esperienza nell'Italia del primo dopoguerra, l'esistenza politica in un quadro più vasto e complesso, e questo attraverso il Partito Popolare Italiano nell'inserimento dei cattolici ubbidienti nello Stato liberale di tradizione laicista, dapprima all'ombra di Don Sturzo e poi nella crisi della democrazia rappresentativa sotto il regime nazionalista, centralista ed autoritario, quale leader riconosciuto di un distanziamento dai fasci, anzi di un'opposizione politica di coscienze religiose, invero incrinata all'interno dalla defezione dei cattolici nazionali e da varie attese fiduciose, ingenuamente sensibili, a gesti e premesse del governo di Mussolini. Vi contribuiva la sua stessa esperienza dal 24 al 42 di umiliato ed offeso nel carcere, nel confinamento, nell'attività anonima di traduttore, tra l'altro di un volume della storia dei papi, nella, che non cessava di osservare e commentare nell'illustrazione vaticana gli avvenimenti mondiali, le tensioni internazionali destinate a sfociare nella nuova guerra europea e mondiale. Così si affina la sua coscienza politica nell'analisi del mondo nuovo di tecniche, di ideologie, di sistemi statali che viene emergendo da guerra, sconfitta, ripresa, con particolare riguardo all'Italia. Così matura la sua consapevolezza delle esigenze della sì tormentata e complessa realtà postbellica, che gli viene interpretando alla luce delle sue fondamentali convinzioni di credente chiamato ad agire di nuovo sul piano politico. In collegamento ideale e parzialmente organizzativo con uomini dell'antico Partito Popolare, ma con la valorizzazione di forze nuove di attivisti credenti, De Gasperi emergeva fin dal 1943 quale illuminato portavoce di una direttiva politica che impegnava insieme la coscienza religiosa, quella sociale e quella nazionale in organica combinazione. In essa e per essa, nel fervore programmatico di ideologie e movimenti politici vivacemente riemergenti con radicalismi, lo statista trentino riprendeva sostanzialmente la struttura dello Stato liberale uscito dal Risorgimento, di cui già si era venuta mitigando la notazione laicista, ma con l'energico inserimento delle istanze sociali, il tutto su una linea di continuità e di sviluppo, sempre sotto l'insegna della democrazia rappresentativa. Le giustificazioni filosofiche le trovava nell'umanesimo integrale di Jacques Maritain, che gli era stato uno dei primi a salutare nella traduzione italiana. Su queste basi De Gasperi prendeva posizione sugli aspetti fondamentali di teoria e prassi politica, sui rapporti tra diritto e Stato, tra libertà e autorità, tra pluralismo e unità, su democrazia formale e democrazia sostanziale, in ragionata coerenza pur nella duttilità tattica imposta dai condizionamenti molteplici del regime democratico rappresentativo. Nei partiti risorti alla crisi del regime autoritario a partito unico, in vista della ricostruzione di organi rappresentativi nello Stato, De Gasperi si trovava chiamato dalla sua posizione, dalla posizione tenuta nel Partito Popolare, ad assumere una funzione direttiva. E questo nel partito dei cattolici impegnati che si veniva riorganizzando nella triplice fase della elaborazione programmatica, della motivazione, della struttura. La costituzione dei partiti aveva una particolare rilevanza in quell'anno 1943, in quanto i gruppi di opposizione antifascista, stretti in comitati unitari, rivendicavano la gestione del potere. La presenza in siffatti comitati, che poi furono i comitati di liberazione nazionale, rappresentava pertanto la sede pertinente dell'azione politica immediata e mediata. Di tale partito dei cattolici impegnati, De Gasperi delineava le idee ricostruttive fin dal 1943 sotto pseudonimo e per esso promuoveva il collegamento tra la vecchia generazione dei popolari e quella dei giovani che si erano maturati, specialmente sul piano della dottrina etico-sociale, nel movimento dei laureati cattolici. Le pubblicazioni programmatiche del 1944, redatte da De Gasperi per la Democrazia Cristiana, rivelano già l'ampia prospettiva. Il collegamento alle rivendicazioni del movimento cattolico, ma anche l'apertura al nuovo sollecitato. E questo con l'occhio non soltanto all'affermazione dei cattolici e alle esigenze di cui si facevano portavoce nello Stato, ma ai complessi problemi dell'Italia prostrata da ricostruire. Al congresso internazionale di Napoli della Democrazia Cristiana del luglio 44, così delineava i compiti della Democrazia Cristiana, quale partito di riforme sostanziali, quale partito di rivoluzione, ma senza perdere di vista il bene supremo della libertà, dice, e così precisava. Il partito della Democrazia Cristiana risponde a due insopprimibili esigenze della vita politica italiana. La prima è che, nonostante le apparenze, il problema della ricostruzione è problema essenzialmente morale. Senza una ripresa della coscienza morale di tutte le classi del popolo italiano, la ricostruzione materiale e civile è impossibile. Facendo un supremo appello al concorso di tutte le forze spirituali, la Democrazia Cristiana riavvicina la nazione alle sorgenti della sua vitalità e infonde la forza per riprendere il cammino della sua cristiana civiltà. La seconda esigenza, sempre De Gasperi che parla, è che la rivoluzione politico-sociale che si va compiendo e che noi vogliamo per ragioni di giustizia e per portare tutto il popolo al governo di se stesso nella politica, nell'economia, nel lavoro, si debba attuare rispettando e salvando i diritti supremi della persona umana e tutte le libertà essenziali per il suo sviluppo. Nelle più ardite riforme ed in ogni direttiva di regime, la Democrazia Cristiana risponde a questa esigenza con l'impegno più fermo di difendere la libertà delle coscienze e degli istituti e il metodo della libertà nelle competizioni civili. Invochiamo e accettiamo in pieno le decisioni del suffragio universale, ma non accetteremo mai che i destini della nazione vengano ancora determinati da cricche plutocratiche o da conventicole giacobine, né compromessi da squadre di parte o da insurrezioni di piazza. E con richiamo più diretto al partito che si stava riorganizzando, riaffermava: queste due supreme esigenze sovrastano ogni altra questione di forma e di struttura e reclamano già per sé tutta la nostra compattezza e il nostro più disciplinato inquadramento. E scrivendo a Togliatti nel settembre 44, con riferimento critico al radicalismo rivoluzionario che programmaticamente urgeva, rifacendosi al mito leninista della dittatura del proletariato, riaffermava, in vista sempre della ricostruzione nazionale, che la bandiera di tutti deve essere quella della libertà, della disciplina nazionale, del governo forte nel diritto comune e nell'uguaglianza dei cittadini, del governo insomma di popolo con i suoi partiti e non di un partito unico sopraffatore. De Gasperi, presidente della giunta esecutiva del suo partito fin dal 44, da De Gasperi, presidente della giunta esecutiva, l'evoluzione interna della Democrazia Cristiana veniva poi controllata non solo nelle formulazioni programmatiche, ma anche nei fermenti di irrequietezza col senso acuto e realistico di quanto vi era di personalistico, di ambizione, di aspirazione a notorietà e di quanto invece esprimeva le esigenze nuove più vivacemente sentite e affermate. Così non si chiuse alle sollecitazioni della cosiddetta sinistra cristiana del gruppo di Dossetti, recependone vedute programmatiche e uomini rappresentativi, pur resistendo alle istanze più integraliste, specie quando si trattava della struttura e della composizione del governo. Lo stesso Dossetti finirà per riconoscere nel 1952 che nella DC non esisteva nessuna alternativa alla linea di De Gasperi e alla sua leadership nel partito. Certo, a consolidare questa leadership contribuiva l'impegno di De Gasperi a formare nel partito una classe dirigente addestrata anche tecnicamente alle forme della politica attiva nella pubblica amministrazione, sia in quelle locali come fase di addestramento e per il loro significato di primarietà e di vicinanza al popolo, sia in quelle nazionali e nei molteplici enti parastatali. Riuscì pertanto nel partito a mediare tra i gruppi, ma fallì in vero nell'impegno di impedire la formazione di correnti e il loro irrigidimento degenerativo in gruppi di pressione e in clientele, con la rivendicazione di posti di influenza e comando in governi, enti pubblici, corpi rappresentativi e ancor più nel controllo del loro autonomo finanziamento a fonti discutibili e comunque di legittimità e opportunità non convincenti. De Gasperi era ben consapevole che l'impegno politico dei cattolici militanti nella rivendicazione dell'autonomia era condizionato indirettamente dalla gerarchia ecclesiastica che aveva sempre controllato il movimento cattolico. Perciò egli doveva assicurare al movimento politico il consenso dell'Episcopato e lo faceva con il richiamo alla coscienza religiosa, alle direttive sociali del magistero ecclesiastico, con la piena consapevolezza della loro maturazione, come aveva mostrato sotto pseudonimo di Mario Zanatta in Tempi e uomini che prepararono la Rinnovaro, ma li richiamava in funzione dei problemi dell'ora, inserendoli come linee ispiratrici nelle scelte di riforma che non potevano in quel clima che essere ardite e incisive. Veniva così superata da De Gasperi la posizione preminente di difesa dei valori religiosi e dell'istituzione ecclesiastica nella società, che era stata propria dei cattolici ubbidienti italiani dell'opera dei congressi cattolici e delle associazioni cattoliche anche nella fase più attiva agli inizi del secolo. E non era una cosa facile. Nell'Episcopato e più su nella Santa Sede la preoccupazione difensiva era preminente. Per molti vescovi si trattava nel 1945 di recuperare prestigio e libertà d'azione, mezzi di vita per le istituzioni, come le aveva garantite il concordato del 29, concluso in vero dai poteri di vertici con differenti sottintesi e differenti interpretazioni. Per De Gasperi, che aveva severamente giudicato gli accordi concordatari con coscienza di credente e di politico, il compito era di assicurare quelle garanzie nella struttura non più autoritaria ma democratica dello Stato, con l'appello alla coscienza religiosa e al suo impegno nell'azione politica incombente di rifondazione dello Stato dopo il regime fascista. Lo rivelerà il modo in cui condurrà nella Costituente la battaglia per il recepimento degli accordi lateranensi nella Costituzione con l'articolo 7, superando l'opposizione vivace dei rappresentanti della tradizione laicista, proprio con la motivazione politica della rilevanza di coscienze e istituzione, a cui poteva rivelarsi sensibile in quel momento lo stesso leader comunista Togliatti. In Vaticano, sotto il pontificato di Pio XII Pacelli, egli aveva sì degli estimatori ed amici, tra cui nella stessa segreteria di Stato Giambattista Montini, il futuro Paolo VI, ma incontrava anche non poche diffidenze proprio per il quadro di riforme e di solidarietà politiche in cui impegnava un partito di cattolici con una valutazione realistica della situazione che esigeva aperture, incontri, compromessi, cosa che non era facilmente compresa dai tradizionalisti di un cattolicesimo che era vissuto per decenni quasi in un ghetto di preoccupazioni conservatrici. L'episodio della proposta sotto il nome di Don Sturzo di un blocco anticomunista comprensivo dei missini per le elezioni amministrative a Roma lo rivelerà chiaramente. La ricerca del consenso della gerarchia doveva procedere e procedeva di conserva con quella del consenso dei cattolici organizzati nell'Azione Cattolica. È da ricordare come questa si fosse comportata, almeno in suoi dirigenti qualificati, nella fase di diretta dipendenza della gerarchia nei diversi rami: Gioventù Cattolica maschile e femminile, Uomini Cattolici, con timide specializzazioni professionali, quali laureati cattolici e gruppi che per il regime sospettoso si richiamavano ai sindacati bianchi del primo dopoguerra. In talune di queste organizzazioni cattoliche si era affermata la direttiva della collaborazione fiduciosa nelle istituzioni del regime, con l'intento, che era dai teorici affermato di apostolato, di spingere dal di dentro ad adeguare tali istituzioni fasciste a lettera e spirito della conclamata rivendicazione religiosa cattolica della romanità. Il presidente della Gioventù Cattolica Italiana, il medico Gedda, era addirittura entrato nella milizia fascista col grado di signore, e i fiancheggiatori di quelli che erano stati nel 1923-24 i cattolici nazionali dissidenti dal Partito Popolare persistevano nelle loro convinzioni col richiamo alla lotta contro il comunismo ateo, che per essi rappresentava la minaccia incombente di avversione per istituzioni e coscienze religiose. Queste cerchie dell'Azione Cattolica accentuavano il momento difensivo tradizionale del movimento cattolico. De Gasperi insisteva invece nell'iniziativa da prendere per la riforma della società, da progettare ed attuare, certo, nello spirito del Vangelo. In questo egli trovava ascolto nei giovani che, nell'attesa di libera azione, avevano meditato su etica società, sulle spinte che dalla società industriale e dal sistema rappresentativo, dalla rivendicazione di democrazia sostanziale, venivano per una revisione di programmi e di metodo. Ed è ben noto quale matrice di programmi e uomini della democrazia cristiana sia stato il movimento dei laureati cattolici e quale significato abbia avuto per la democrazia cristiana il cosiddetto codice sociale di Camaldoli. Vero è che da parte dell'Azione Cattolica e della gerarchia ecclesiastica, De Gasperi ha dovuto subire dei condizionamenti, tali, ad esempio, i comitati civici, specie nella scelta dei candidati delle liste della democrazia cristiana, sia nelle elezioni nazionali che in quelle delle amministrazioni locali. La volontà e capacità politica di De Gasperi, esponente riconosciuto della democrazia cristiana e indirettamente delle forze cattoliche nello spirito programmatico che abbiamo richiamato, doveva misurarsi nella concordia discos del Comitato di Liberazione Nazionale Centrale e nei governi di ispirazione cielenistica dal secondo Badoglio a quello di Bonomi e poi nel governo Parri. Esse, tale volontà e capacità di De Gasperi, si esprimevano con ampiezza di prospettive già nella crisi del governo Bonomi, nella formulazione da parte della democrazia cristiana di provvedimenti urgenti che il nuovo governo doveva attuare. Essi erano visti, primo, nella ricostruzione dell'esercito italiano per intensificare lo sforzo bellico al fine di liberare l'Italia settentrionale dall'occupazione nazifascista. Secondo, nell'alimentazione del popolo e nella ricostruzione almeno dei ricoveri più urgenti. Terzo, nella situazione finanziaria per la solidità della moneta e l'adeguamento dei prezzi. Quarto, nella punizione dei delitti fascisti e nella epurazione dell'amministrazione, che doveva rigorosamente e effettivamente essere fatta con un sistema rapido, imparziale e in modo da garantire anche visibilmente una giustizia al di sopra dei partiti. Quinto, nella situazione dei lavoratori dei ceti medi, che dovevano essere preservati dalla tragedia della disoccupazione e dalle sperequazioni fra i guadagni e il costo della vita. Tali provvedimenti urgenti venivano prospettati col richiamo alle finalità fondamentali della politica democristiana, così formulate: radicale riforma terriera e della struttura industriale a favore del lavoro e contro i monopoli plutocratici, libertà tutelata dalla legge e dalla autodisciplina del popolo, autorità dello Stato al quale un governo sinceramente democratico offra la sostanziale garanzia di una politica di graduale trasformazione che lo appoggi sulle masse popolari e lo renda espressione dei loro interessi e delle loro aspirazioni. Tale politica, veniva precisato con senso realistico, doveva realizzarsi tenendo conto delle esigenze supreme della guerra di liberazione, della priorità dei problemi di emergenza e delle possibilità economiche e finanziarie. E si concludeva: in tale senso il Partito Democratico Cristiano è disposto a collaborare con i comitati dei combattenti del Nord, ai quali va delegata l'autorità di governo, e con i comitati di liberazione dell'Italia liberata, quando e dove per la loro efficienza possono offrire allo Stato un valido contributo di organizzazione e di consulenza. Il tutto fermo restando la meta ideale, che doveva essere la radicale trasformazione dello Stato in senso popolare, riservata all'opera dell'Assemblea Costituente. De Gasperi ben aveva notato convergenze, divergenze, incoerenze, incertezze nei partiti della esarchia ciellenistica, con una penetrazione realistica delle loro ideologie, del loro seguito, delle loro vicende entro il paese e fuori nell'emigrazione politica. E proprio sulle convergenze, sulle tradizioni a cui ciascuno di essi si richiamava, maturava quella che Scopola da storiografo chiamerà la proposta politica di De Gasperi. Col vivo senso dei bisogni del paese e dello stato d'animo diffuso di sofferenza, di irritazione, di attesa di mutamento, ma anche di aspirazione alla normalità del vivere, egli perseguiva pazientemente una difficile opera di mediazione tra la restaurazione dello Stato prefascista, sollecitata da liberali, dalle cerche dell'industria, dai detentori di redditi fissi, e le innovazioni radicali in economia e amministrazione richieste dalle sinistre azioniste e socialcomuniste, con insistente richiamo al movimento insurrezionale del Nord e alle strutture commissariali dei Comitati di Liberazione Nazionale. Nella Costituente, come più tardi nel Parlamento, De Gasperi cercava pertanto accordi coi partiti organizzati del Comitato di Liberazione Nazionale, che rivendicavano il potere quale espressione delle forze popolari e delle istanze innovatrici della resistenza. Però mostrava sensibilità anche per l'opinione pubblica, che si muoveva fuori dai quadri dei partiti risorti, per la situazione del paese in via di faticosa ricostruzione morale e materiale, per le esigenze e le possibilità concrete, al di là delle rivendicazioni ideologiche e emotive. In tal modo, De Gasperi riuscì a negoziare il consenso su punti che riteneva ed erano fondamentali per una pacifica e salda ristrutturazione del nuovo Stato. Qui e nei governi di coalizione di ispirazione cellenistica egli abilmente valorizzò la rivendicazione togliattiana dei partiti di massa per superare il principio paritario che era alla base dei governi di ispirazione cellenistica e impostare alleanze di governo sulla base del seguito effettivo nel paese e sull'entità del consenso elettorale. Questa politica di mediazione, che non fu scevra di rotture per i riflessi delle tensioni interne e dei condizionamenti dal di fuori, è stata oggetto di acuta rievocazione da parte di un esponente del Partito d'Azione fattosi storico, quale Leo Valiani, sotto l'insegna dell'avvento di De Gasperi, che è il titolo del libro, nelle sue fasi, nei suoi accorgimenti tattici, nelle sue motivazioni e giustificazioni politiche. In questa politica Alcide De Gasperi si fece luce, dice Valiani, come uomo dotato di senso dello Stato, più di qualsiasi altro dei membri del Comitato di Liberazione Nazionale, sia quello centrale sia dell'Alta Italia. In virtù di questo, il politico trentino proponeva e otteneva che nella fase della Costituente l'attività legislativa fosse riservata al governo, assicurando così una prima vittoria della continuità dello Stato sulla rivoluzione dello Stato. Nella crisi di solidarietà dei tre partiti che portò alla caduta del governo Parri e al primo governo De Gasperi si affermò del politico trentino l'ascendente personale sui colleghi socialisti del precedente gabinetto, un ascendente che era radicato nel convincente richiamo ai valori fondamentali della democrazia e nella volontà di porre lo Stato al di sopra dei partiti politici e delle classi sociali, come rappresentativo del bene comune, quale lo teorizzava la sociologia cattolica e quale lo voleva l'uomo della strada. Naturalmente De Gasperi aveva riguardo agli interessi dei ceti sociali che stavano dietro la Democrazia Cristiana, però, osserva sempre Valiani, le decisioni che riguardavano la costruzione, l'autorità, la difesa dello Stato, De Gasperi non le affidava al proprio partito e tantomeno alle categorie economiche in esso rappresentate. Le prendeva sempre in coscienza, sotto la sua personale responsabilità. Non confondeva le necessità obiettive dello Stato con le tendenze soggettive del suo partito e della sua classe sociale. Sotto la guida di De Gasperi, fin dal 43-45, i Democratici Cristiani, con il loro programma volto a conciliare autorità e libertà, tradizione e riforma sociale, prestigio dello Stato e larga autonomia locali, riuscirono a conseguire rapidamente un larghissimo numero di nuovi consensi negli ambienti borghesi, impiegatizi, contadini, artigiani e anche proletari, che si erano stretti attorno alla Chiesa come l'unica organizzazione legale non manomessa dai gerarchi del fascismo e dagli invasori nazisti. L'avvento di De Gasperi coincideva così con il ripristino della legalità in tutti i sensi, almeno come obiettivo. Anche nella politica estera, di fronte agli appassionati e complessi problemi di Trieste e dell'Istria rivendicate dalla Jugoslavia e Egitto e alle rivalità delle potenze vincitrici al riguardo, la posizione di De Gasperi acquistava rilievo come quella, dice Valiani, del rappresentante potenziale di una direzione del paese scevra di grosse influenze comuniste. Quest'opera e questo indirizzo si avvertono nella nuova combinazione governativa che allontana i socialcomunisti da ministeri chiavi, quali erano gli esteri, le finanze, l'assistenza postbellica. E quando De Gasperi constata le difficoltà del governo, anche nella nuova struttura bipartitica, a resistere con la necessaria energia alla inflazione, non esita a modificarle, introducendomi da un lato i socialisti autonomisti di Saragat, dall'altra uomini che godevano la fiducia della destra economica. Con questo De Gasperi si precludeva il consenso dei partiti ideologizzati di sinistra, che avevano il supporto dei sindacati e delle politicizzate rivendicazioni salariali, però si assicurava quello di larghi strati della popolazione. Su questa linea dell'allargamento del consenso era anche il decreto che cancellava di fatto l'epurazione e reintegrava nell'amministrazione dello Stato funzionari precedentemente eliminati per presunta fasciosità fascista o per adesione alla Repubblica di Salò. Inoltre, nella battaglia contro l'inflazione, De Gasperi sapeva, nel contempo, valorizzare l'opera combinata di Luigi Einaudi, ministro del bilancio, di Merzauer, pure liberale al commercio estero, che rispettivamente agivano sulla domanda e l'offerta, sul tasso di sconto, sul mercato del credito all'interno e sulle importazioni dall'estero. Così si avviava la restaurazione economica con le forze interne ed essa veniva vigorosamente corroborata dai contributi americani sotto l'insegna del piano Marshall di ricostruzione europea. Certo, l'esclusione dei socialcomunisti dal quarto governo era stato un atto di forza, alla cui motivazione avevano contribuito, oltre che considerazioni di politica interna, la situazione internazionale con l'aggravamento delle tensioni tra gli ex alleati. L'esclusione avveniva però senza le reazioni di piazza che ci si aspettavano e certamente significava uno spostamento restaurativo della politica governativa. Però dall'operazione del 1947, cioè l'esclusione dei socialcomunisti, De Gasperi traeva un aumento di forze imprevisto. La facilità con la quale egli poté cacciare i comunisti dal ministero e governare anche senza di loro, gli guadagnò la fiducia dei milioni di piccoli e grossi possidenti che in precedenza avevano pure imprecato contro di lui per la minaccia del cambiamento della moneta. Per una democrazia parlamentare moderata a cui aspirava il Presidente del Consiglio era una prova di forza. Per l'insieme delle aspirazioni proletarie, socialistiche, radicalmente riformatrici e rivoluzionarie, la rinascita della fiducia nella conservazione era un'innegabile, anche se non decisiva, sconfitta. Il consenso dei partiti della coalizione di governo, De Gasperi lo manteneva con l'occhio alle forze di cui erano espressione portavoce, sempre in funzione di una stabilità sostanziale, pur nell'apertura alle riforme, mediando tra i molteplici interessi di difficile composizione. Per questo, anche dopo il successo elettorale del 1948, egli includeva esponenti della sinistra socialdemocratica e il Partito Repubblicano in rappresentanza dei rispettivi elettori, ovvero a titolo personale come tecnici, uomini di prestigio come Sforza, La Malfa, Pacciardi. Nel contempo valorizzava esponenti dell'attivismo riformatore della Democrazia Cristiana come Vanoni e Fanfani. C'era in questo una preoccupazione di equilibrio, di autodifesa dalle pressioni di parte, specialmente da quelle interne più conservatrici e integraliste della tradizione cattolica, ma più in profondità il riconoscimento delle forze intellettuali e sociali che i cosiddetti laici rappresentavano sulla linea della tradizione risorgimentale, specialmente nella cultura. Esse avevano diritto di presenza anche per controbilanciare le forze più vivaci di quelle che erano dette, di quello che era detto integralismo cattolico. Certo, nella scelta degli uomini, De Gasperi non sempre dava la preminenza al criterio della competenza. In non pochi casi sembrò che fosse decisiva piuttosto la qualità di esponenti di interessi o di correnti, in funzione quindi di consensi di settore o addirittura di clientele. Affermare però che quella del politico trentino fosse una politica sostanzialmente clientelare e personalistica, come fa il vecchio Bozzo, mi sembra troppo sbrigativo e semplicistico per definire una dosatura certo sottile delle scelte che egli faceva. Il consenso più significativo e rilevante a De Gasperi come persona e alla sua politica si è manifestato però nelle elezioni generali coi voti della DC, di cui egli si era fatto portavoce e di cui era riconosciuto leader. Questo consenso egli fin dalla primavera del 45 lo rivendicava come fondamento e condizione di una democrazia rappresentativa. In una mozione al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana egli affermava: bisogna che il nuovo Stato postfascista nasca e si concreti veramente con un concorso consapevole del popolo e mediante libere consultazioni. Condizione preliminare era dunque la rinuncia a qualsiasi tentativo di ricorrere alla forza, alla violenza, alla dittatura di minoranze attive, ma insieme una sistematica opera di illuminazione del popolo, chiamato ora alle urne sui problemi della vita pubblica, sui suoi condizionamenti economici, amministrativi, psicologici. De Gasperi aveva in chiaro l'idea dello Stato e della società dai ceti molteplici e dalle non meno molteplici sollecitazioni particolaristiche. Ed ugualmente chiaro quello che significava chiamare a decisioni sui fondamentali orientamenti dello Stato la massa di quanti erano rimasti esclusi per decenni da tali decisioni, mero oggetto di appelli emotivi o di parole enfatiche dall'alto, più che di inviti a riflessione personale. Di qui, in vista di codesto consenso di popolo, l'impegno preliminare del proprio partito, come quello che doveva condividerne gli orientamenti di fondo. Era da conquistare anche la massa, specialmente delle donne, e lo faceva con un'acuta percezione delle aspirazioni popolari sotto l'insegna di salvare la libertà. Se non conquistiamo, ammoniva De Gasperi in Consiglio Nazionale nell'estate del 45, se non conquistiamo queste larghe masse di popolo, le abbandoniamo ad altri, ovvero le lasciamo nell'astensionismo, il che è un gravissimo pericolo. La DC deve mostrarsi e operare come partito democratico in cui le decisioni non sono prese da conventicole ma da tutta la massa degli iscritti. Le masse erano i ceti che più avevano sofferto di disuguaglianza economica e sociale, perciò alla loro mobilitazione per la libertà politica, conclamata dalla tradizione liberale risorgimentale, era necessario dare un contenuto più concreto, di percezione immediata, rispondente alle aspirazioni diffuse. De Gasperi, sempre nel 1945, nella stessa sede del partito, sottolineava che al concetto di libertà politica, che non sia meramente formale, sono essenziali la garanzia al diritto al lavoro, la libertà dal bisogno, la sicurezza economica, il riconoscimento dell'uguaglianza di possibilità di affermarsi secondo le proprie doti di onestà, di capacità, di sacrificio. La nuova società deve sorgere sulla base di una solidarietà vasta e comprensiva di tutto il popolo e non su quello di interessi di classe o di categoria. De Gasperi mostra riluttanza alla formula unitaria dei comitati di liberazione, che erano di iniziativa di attivisti. Però, proprio guardando alle esigenze di consenso, alla fine del 1945, in direzione della DC, prospetta una coalizione di tutte le forze democratiche come soluzione della crisi in atto, con la cooperazione di quanti gli dice capaci di dare un contributo fattivo al superamento dell'emergenza fino alla Costituente. La ricerca del consenso non era in De Gasperi un adeguamento populistico alle affermazioni, alle aspirazioni delle masse acutamente percepite, quali che fossero, ma piuttosto un impegno a illuminarle e a orientarle, anche con posizioni che potevano essere in contrasto con diffusi sentimenti, sempre con l'occhio alla situazione morale e materiale del Paese e alla sua situazione internazionale. Tale il caso della sua pronuncia repubblicana nel referendum istituzionale e ancor più della decisione con cui bloccò le tergiversazioni del Savoia, assumendo anche per pochi giorni le funzioni e le prerogative di capo dello Stato, così impedendo lo scatenarsi di agitazioni di piazza. Le elezioni per la Costituente rappresentavano la prima sanzione della preminenza della DC con oltre il 35% dei voti, testimoniando che l'elettorato DC era assai più vasto di quello degli iscritti al partito. Certo, il consenso era organizzato e andava ben oltre l'ambito dei militanti. Esso partiva dalla matrice del movimento cattolico e abbracciava così i membri dei vari rami dell'azione cattolica mobilitati primariamente a difesa della coscienza religiosa e delle istituzioni minacciate dal riemergente laicismo e per una riaffermazione dei valori cristiani nella vita pubblica. Forte era stata l'impressione fatta dal rifiuto dei partiti laici di governo a una celebrazione religiosa della vittoria sulla Germania nazista e la suddita Germania Repubblica Salò, sull'esempio di quanto aveva fatto il governo di Roosevelt in America. Di impegno più specifico, il consenso alla democrazia, alla politica democristiana e quindi a De Gasperi, delle organizzazioni sociali, sia di quelle tradizionali dei sindacati bianchi riemersi nella unità sindacale, ma destinati poi a riprendere la propria autonomia alla rottura di tale unità nel 1947, sia delle nuove organizzazioni specializzate, come quelle dei coltivatori diretti, soprattutto Mezzadri, che controllava un ambito rilevante del mondo rurale. Nel contempo, De Gasperi aveva ottenuto il fiancheggiamento della gerarchia ecclesiastica. Essa si mostrava impegnata con le menzionate preoccupazioni difensive e aveva ottenuto affidamenti con l'inclusione di personalità di fiducia nelle liste dei candidati, appoggiate non molto discretamente con l'organizzazione dei voti di preferenza. De Gasperi aveva nel contempo eluso le posizioni estremiste emergenti nella Democrazia Cristiana in gruppi di pressione organizzati, fonti di dissidenza. Per siffatto motivo aveva respinto la inserzione nel nuovo partito cattolico del vecchio popolare Irrepieto Miglioli e di giovani teorici di una sinistra cristiana filocomunista. Si era inoltre polemicamente distanziato da personalità della destra conservatrice anche rappresentativa, come quella di Stefano Iacini, critica delle pronunce riformistiche della Democrazia Cristiana e fautrice della semplice restaurazione del sistema sociale prefascista. Al più vasto consenso di popolo, che doveva dar fondamento in democrazia alle grandi decisioni sullo Stato, le sue leggi e il suo governo, era indirizzato anche l'assorbimento elettorale degli ex fascisti. Esso era presentato come una pacificazione e in tale senso in un passo ulteriore in vista del ristabilimento dello Stato nella continuità, era la reintegrazione dei funzionari epurati e la soppressione dell'alto commissariato all'epurazione, secondo vaste aspettative, tra le quali particolarmente dei tanti che avevano dato un consenso ingenuo e emotivo al fascismo, l'Italia si ritrovava pacificata col mondo post-fascista, non più nazionalista o autoritario, ma neppure rivoluzionario, politicamente e socialmente conservatore. Sotto il governo De Gasperi, alla fine del 1947, lo Stato italiano eliminava, come osservo i Pagliani, dal suo corpo la rivoluzione antifascista e riassorbiva quei fascisti che abbiuravano la rivoluzione mussoliniana. Il leader democristiano aveva pure ottenuto il fiancheggiamento dei ceti economici, dei risparmiatori del mondo industriale, già con l'abolizione dei commissari straordinari delle imprese e la loro restituzione ai dirigenti destituiti. Al consenso interno aveva contribuito anche la politica estera dell'uomo di Stato, col suo distanziamento dalla sinistra socialcomunista, filosovietica e filotitina, la valorizzazione dei rapporti più distensivi con le potenze occidentali, soprattutto con gli Stati Uniti d'America, facendo leva sulle loro divergenze con la politica Unione Sovietica in Europa, primariamente per un trattato di pace non umiliante. Gli aiuti sostanziali del piano Marshall all'economia italiana in viveri, materie prime, attrezzature, confermavano il consenso alla linea politica di De Gasperi e alle sue combinazioni di governo di coalizione o monocalori realizzate con dosaggi tattici e strategici. Il consenso richiesto e ottenuto dal politico trentino nelle sue motivazioni di politica interna e di politica estera emerge in piena luce e con efficacia dall'appello rivolto agli italiani per l'elezione del 18 aprile sotto il motto "Salvare la libertà". Il 18 aprile si diceva: voi potete salvare o distruggere la vostra libertà, non soltanto la libertà del Parlamento e delle istituzioni democratiche, bensì tutte le elementari libertà dell'uomo, la libertà di pensiero e di esprimere le proprie idee, la libertà di scegliere il proprio campo di lavoro, la libertà di educare i figli secondo le proprie convinzioni, la libertà di professare la fede dei padri. La scelta è ormai tra un inumano totalitarismo che tutto accentra e soffoca nello Stato ed un concetto umano della vita politica, alla quale cittadini, associazioni, partiti collaborino in libera gara per il conseguimento del bene comune. La scelta è tra un totalitarismo bolscevico che si nasconde dietro la maschera del fronte cosiddetto popolare e lo schieramento dei partiti sinceramente democratici. L'affermazione della libertà, dice sempre il documento, però non si risolve in una posizione puramente difensiva. La difesa della libertà non è possibile senza giustizia sociale, la quale reclama la preminenza del lavoro. La Democrazia Cristiana sente che il suo compito coincide col compito storico del nostro tempo, che essa deve e può contribuire in modo decisivo all'ascesa economica, sociale e politica delle classi operaie e contadine e dei ceti medi. A questo fine vuole impegnarsi nell'attuazione concreta dei principi innovatori sull'ordinamento della proprietà e della vita economica sanciti nella nuova Costituzione. Nelle sfere governative, nello sforzo governativo, superando difficoltà e ostacoli di ogni genere, la Democrazia Cristiana fu guida alla restaurazione dell'ordine e dell'autorità dello Stato, alla difesa economica, al progresso sociale. Soprattutto ha dato un apporto decisivo al reinserimento dell'Italia in piena indipendenza e dignità nel quadro della pacifica collaborazione dei popoli e ha così assicurato, specialmente alle classi lavoratrici italiane, i vantaggi della solidarietà economica internazionale. Questa azione la Democrazia Cristiana intende intensamente continuare per lo sviluppo dell'attività produttiva, per la difesa del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, per la massima occupazione della manodopera, per la riforma della previdenza sociale, per l'incremento della vita regionale, specialmente nel dopoguerra, nel Mezzogiorno, e concludeva con l'appello alla pace, pace cui dopo tanti lutti e miserie aspirano con pieno diritto le nuove generazioni, pace da realizzare con il metodo democratico e nello spirito della civiltà cristiana. De Gasperi valorizzava il consenso elettorale ottenuto per consolidare la sua direttiva di un governo che affrontasse, assieme ai problemi dell'ordine pubblico posti dai fermenti ideologici combinati con agitazioni operaie, quelli di natura economica che investivano masse sempre più vaste, mediando anche qui attraverso uomini rappresentativi delle sollecitazioni della destra economica e programmi sociali ardite, come la riforma agraria, specialmente nel sud, quella fiscale e l'INA Casa, l'organizzazione per le case operaie con finanziamento dello Stato. L'analisi dei governi De Gasperi, dal quinto con Saragat vicepresidente e Sforza agli esteri, del sesto con i repubblicani Pacciardi e La Malfa, del settimo con portavoci della sinistra interna della DC quali Vanoni e Fanfani, può illuminare anche questo aspetto del consenso alla politica dell'uomo di governo e ai collaboratori per essa scelti. È in questi anni 50 che, con l'occhio alle esperienze della democrazia in Occidente, specie in Francia e nella Germania federale, De Gasperi avverte come il sistema elettorale vigente renda difficili stabilità, funzionalità di governo e la tempestività dell'azione legislativa in Parlamento. Erano esigenze, d'altra parte, avvertite anche da correnti assai sensibili dell'opinione pubblica. E il problema rincomberà sulla democrazia italiana negli anni 70 e negli anni 70 si riproporrà in termini anche più drammatici, anche se diversi. In sede di partito, De Gasperi così motivava la proposta di riforma elettorale con premio di maggioranza in termini polemici, quale difesa delle istituzioni democratiche dall'antidemocrazia di sinistra e di destra per impedire che con le armi della democrazia si uccida la democrazia. E queste finalità erano confermate nell'accordo della democrazia cristiana con i partiti laici, socialdemocratici, liberali, repubblicani. Consolidare la democrazia, assicurare la stabilità e l'efficienza delle istituzioni parlamentari e del governo, garantire l'ascesa del popolo a un più alto livello di giustizia sociale. Erano tutti motivi caratteristici dell'impostazione de Gasperiana e della volontà che le era propria di cercare il consenso nelle masse interessate all'ordine sociale, riluttanti a esperienze radicali e insieme a ritorni autoritari. La riforma della legge elettorale otteneva l'approvazione, ma dopo una logorante battaglia dentro e fuori il Parlamento, di fronte a uno schieramento d'opposizione che gli chiedeva una lesione dei principi rappresentativi e la denunciava come una truffa elettorale. Ma il 7 giugno 1953 il consenso del corpo elettorale si manifestava più ristretto e con defezioni proprio in quei partiti laici che De Gasperi aveva sempre voluto collaboratori nel governo. In sede parlamentare poi tale situazione di crisi di consenso era confermata dal rifiuto della fiducia con cui era accolto il suo ottavo ministero monocolore ma ugualmente di laboriosa gestazione per le rivalità di correnti e clientele nel DC. La riforma elettorale proposta da De Gasperi era intesa ad assicurare governabilità ad una coalizione di centro aperta a sinistra in un Parlamento in cui una irrequieta ed instabile maggioranza si lavorava in rivalità di partiti e di correnti di partito e la formazione di governi era troppo condizionata da diffidenze, ambizioni personali, da gruppi di pressione economica e politica. La sconfitta elettorale già già significava già una diminuzione di consensi proprio nel settore che più interessava alla concezione di De Gasperi, la sinistra non frontista. Egli aveva cercato di minimizzare l'insuccesso con la constatazione che il centro rimaneva saldo e determinante garanzia per la difesa e il consolidamento della democrazia. La sconfitta parlamentare dell'ottavo suo governo, che rinunziava alla tradizionale coalizione con le sinistre moderate per presentarsi come monocolore di tormentata formazione, sanzionava il declino della leadership dello statista trentino. Egli la manteneva, ma indebolita e discussa, 22 schede bianche contro 42 favorevoli nella Democrazia Cristiana, e nel compito di segretario politico egli si impegnava con fervore pur con forze già logorate da un male senza rimedio. Così il mito di De Gasperi statista, quasi carismatico, si incrinava anche nel partito su cui egli aveva fatto leva nel promuovere la restaurazione dello Stato in una dialettica di sollecitazioni e proposte sulla base di un programma che era stato formulato in concordia discorso nella Carta Costituzionale. Il venir meno di tale leadership non tardava a lasciarsi avvertire nei governi, nel Parlamento, nella Democrazia Cristiana. Una personalità di prestigio con consensi altrettanto vasti non riemergeva nel mutar dei governi, nelle coalizioni di governo, che non cessavano di rivelarsi imperi ai compiti incombenti per debolezza di prestigio, mal rimediata, resto di prestigio che era mal rimediata da abilità tattiche di compromesso e di mediazione. Il programma De Gasperiano era riaffermato, però il suo sviluppo era arrestato da circostanze nuove: l'agitazione studentesca, la crisi del vicino Oriente, quella del petrolio, dalla crisi della Comunità Europea, dalle soddisfazioni nei riguardi dell'Alleanza Atlantica. Il miracolo economico si arrestava, l'espansione di redditi e consumi ormai in crisi si veniva rivelando come l'inciampo di ogni governo, di ogni maggioranza. Ed è significativo che le proposte più radicali per superare difficoltà di struttura e di congiuntura abbiano riportato all'idea del confronto programmatico con la sinistra che era stato di De Gasperi in regime di comitati di liberazione, in una riedizione e rielaborazione avanzata da Aldo Moro tra diffidenze che pure De Gasperi aveva conosciuto. E anche il problema della riforma elettorale in vista di una stabilità governativa e di direzione organica sulla quale De Gasperi è scaduto riemerge in questo 79 come proposta anche più ardita con proposte anche più ardite di quelle dello statista scomparso, con richiami anche di Monti e con richiami alla sua esperienza di governo. Egli ha pertanto lasciato un'eredità valida circa il contenuto della leadership politica e il metodo, che è quello della persuasione, dell'impegno di coscienza al servizio di una politica meditata, fatta di saldi principi e di ampie conoscenze di uomini e di cose, di pazienza e di attese in una visione etico-religiosa. E nell'impegnarsi nella ricostruzione di un paese sconvolto e diviso, qual era l'Italia, di De Gasperi, egli si è incontrato con lo statista tedesco chiamato ad operare in una Germania devastata, umiliata, sospettata, attingendo alle stesse risorse di fede, di energia, di fiducia. Ben a ragione i due statisti vengono assoggiati in questa ricostruzione storica della rifondazione della democrazia in due paesi tra i più provati da dittature presuntuose, prepotenti, brutali. Amico Bendiscioli, riguarda proprio una annotazione che ha fatto quando ha affermato che Alcide De Gasperi collaborò a superare il principio paritario all'interno dei comitati di liberazione nazionale e a passare ad un principio non teorizzato, un principio pragmatico, diciamo, quello che all'interno i comitati di liberazione nazionale, per gli amici di lingua tedesca, erano prima degli organi insurrezionali, poi degli organi provvisori di governo, composti da 5 partiti nell'Italia settentrionale e dai rappresentanti di 5 partiti nell'Italia settentrionale e dai rappresentanti da 6 partiti a Roma. Nell'Italia meridionale, da Roma e anche nell'Italia meridionale c'era la Democrazia del Lavoro. E a Firenze all'inizio ancora Carlo Corardi era della Democrazia del Lavoro. Ora il patto che vigeva all'interno di questi organi provvisori, che per un certo periodo hanno tenuto, specialmente nella periferia, la vera e propria azione di governo, il principio era quello della pariteticità di tutti i partiti, indipendentemente dal loro peso elettorale, che del resto, come aveva scritto e annotato proprio Croce, però quando criticava questo concetto di partiti di massa, e il peso elettorale che non poteva essere ancora, forse intuito sì, ma non verificato, specialmente fino al 1946, quando ci sono state le elezioni per la Costituente. Ora, se ho ben capito, il professor Bendiscioli ha attribuito quasi a un certo merito politico di De Gasperi questo superamento del principio paritario e il passaggio invece all'adozione pratica di una certa egemonia all'interno dei CDN. Una domanda nella tua domanda, perché anche io non ho capito, e tu credo che ce lo sia per domandare, questa era quando sarebbe avvenuto questo, sì, con precisione questo va bene, e poi ripeto anche la valutazione dell'abbandono di questo principio, di questo metodo paritario e il passaggio ad una vera e propria egemonia dei partiti di massa che, fra il resto, oltre alla Democrazia Cristiana, ai comunisti e ai socialisti, tra i partiti di massa si era intrufolato anche senza nessun diritto quantitativo anche il Partito d'Azione, che abbiamo poi visto, va bene, vero, quali masse o non masse avesse dietro le proprie spalle. La cosa mi interessa perché è stato anche uno dei fatti e dei motivi di maggior cruccio all'interno di questi organi provvisori, e che io ho vissuto, va bene, vero, direttamente in prima persona, sia pure alla periferia. E pregherò poi il professor Bendiscioli di dare questi chiarimenti che sono molto interessanti e che mi lasciano un po' anche, finché non avrò la prova di essere in errore, mi lasciano un poco così sorpreso e perplesso, perché non riesco ad inquadrare questa azione di De Gasperi in tutta quella che è la sua figura e la sua concezione politica. Ma già che ho la parola e con la promessa di non intervenire se non proprio per fatti minimi e occasionali, però vorrei dire che nelle due relazioni di Irten e di Bendiscioli c'è qualche cosa di comune, anche un po' per rispondere alla sollecitazione fatta ieri dal professor Prodi di voler vedere, però contemporaneamente, non limitarsi soltanto gli italiani a De Gasperi i colleghi di lingua tedesca ad Adenauer, c'è qualche cosa che appare di unitario tanto nell'azione di Adenauer e nella concezione di Adenauer quanto in quella di De Gasperi. Ed è questa coscienza del valore del Parlamento e di questa volontà di ridare prestigio al Parlamento. Per il mondo di lingua tedesca è stata fatta questa osservazione, per la Germania, questa osservazione interessantissima ieri, che fino al 1918 forse in Germania il Parlamento non aveva avuto questo significato che ebbe, per esempio, nell'impero austro-ungarico invece, vero? E anche infatti in Italia il potere legittimo era quello della monarchia crollata, e poi la Repubblica di Weimar non aveva un Parlamento anche sotto l'azione del nascente vero movimento hitleriano, non riuscì a fare presa nella convinzione politica, vero? E che perciò l'opera di Adenauer è stata questa di dare valore al Parlamento proprio come espressione della volontà politica di tutto quanto il corpo dello Stato. Questo richiamo, questo accenno fatto al Parlamento mi porta a dire che una delle tesi fondamentali, secondo il modo in cui io vedo le cose, di De Gasperi, e nuove forse per il mondo cattolico italiano, è stato proprio però quella di dare estrema importanza e estremo valore al Parlamento. In fondo i cattolici italiani erano rimasti fino al 19, vero, con la fondazione del nuovo Partito Popolare Italiano, a cui diede grande opera anche lo stesso De Gasperi, erano rimasti in una posizione, si sa benissimo, va bene, vero, di attesa, se non addirittura, vero, di sospetto, la famosa tesi di Meda, vero, cattolici deputati, ma non deputati cattolici, vero. E il De Gasperi nel 1924, in quella parte di articoli di cui si diceva, di opera giornalistica, di cui si diceva ieri che avrebbe la pena proprio di riprendere e di rifare, ha un interessantissimo articolo proprio durante la crisi Matteotti. Durante la crisi Matteotti, che mi è stato segnalato dalla collega Garbari, un interessantissimo articolo dove richiama gli italiani nel 1924 al valore del Parlamento, con un diretto riferimento a quello che è avvenuto nel 1916 e poi in apertura nel 17 in Austria, quando era stato assassinato il ministro Sturgek. Proprio scrivendo, gli italiani si accorgono adesso, va bene, vero, del valore del Parlamento, come si erano accorti in Austria del valore del Parlamento dopo questo fatto drammatico, l'assassinio del ministro e qui l'assassinio di Matteotti. Il consenso che è venuto al De Gasperi, consenso politico, da ambienti di orientamento ideologico profondamente diverso. Anche questa osservazione è stata fatta che la Democrazia Cristiana ha raccolto voti non soltanto di cattolici, ma voti di provenienze diverse, di laici anche numerosissimi. È venuto, sì, è così, questa è la verità delle cose, del resto i numeri lo testimoniano. Il consenso che è venuto a De Gasperi, e a mio avviso dipende proprio da questo fatto che egli rappresentava nel mondo cattolico un indirizzo e una concezione politica cosciente dei valori dello Stato e cosciente dei valori del Parlamento, e intorno a questa figura si era manifestata la speranza di gran parte del popolo italiano di vedere sulla base di questi due principi, la difesa dello Stato e il prestigio del Parlamento, la speranza di poter superare quella che è stata la drammatica crisi anche morale del dopoguerra. E voglio subito concludere, perché non voglio rubare il tempo, vero, ad altri. Questo mi riporta però a risottolineare una notazione che ho detto rapidamente nelle due parole di introduzione. C'è nell'azione politica di Adenauer e nell'azione politica di De Gasperi un fondamento comune che va ricercato anche al di là di quello che è stato proprio il muoversi pratico vero, nei problemi della prassi politica. Ed è un complesso di principi etici che sono fondamentalmente comuni nei due uomini e che provengono dal cristianesimo, ma da un cristianesimo non integralista e da un cattolicesimo non integralista, come diceva un momento fa il professor Bendiscioli, vero? È un complesso di principi etici che sono tradotti poi nei dettati costituzionali, nelle norme giuridiche e anche nei rapporti internazionali. L'analogia fra i due uomini credo che possa essere ritrovata e ricercata molto più profondamente di quella che è la loro azione politica, proprio all'interno di questo complesso di principi etici, tra i quali ieri il professor Hirten ricordava e ha insistito più di una volta su quello che era il principio del diritto naturale. Se noi leggiamo gli scritti di De Gasperi anche fino al 1918 e dal 18 al, 20, al 24, ma poi ritorna anche così tutta quanta le sue parole, i suoi discorsi anche dopo il 45, il principio del diritto naturale è il principio essenziale intorno al quale concentra la sua concezione e la sua azione politica. Ora, questo principio del diritto naturale era tale da poter creare quella sintesi di cristianesimo, cattolicesimo e liberalismo e democrazia. E democrazia, evidentemente, che sono stati i fondamenti, così io vedo, del pensiero e dell'azione politica di De Gasperi, cattolico, liberale, liberale cattolico, ma un cattolico con la coscienza dello Stato che aveva imparato proprio nella sua esperienza all'interno della vita austriaca e nel Parlamento viennese. Domando scusa se sono stato un po' lungo, ma queste cose volevo dirle, insomma. Perché... Volevo rispondere subito, ecco, penso... c'è un intervento di professor Aliberti. Io penserei forse di spiegare alcuni termini che riguardano anche questo, uno degli punti fondamentali del rilievo di Corsini. Innanzitutto dei termini. Questi comitati di liberazione hanno come sfondo una ideologia che è stata illustrata, e qui mi permetto di richiamare di nuovo la importanza delle relazioni del convegno di Firenze 75 sull'Italia 1945. I comitati di liberazione nazionale hanno avuto uno sfondo di natura fortemente ideologica e politica, cioè la concezione che è facilmente stata riportata ai club giacobini della Rivoluzione Francese. C'è un libro di cui in questo momento non ricordo il nome, ma Barrier forse me lo ricordo, quello di Siena, di storia delle dottrine politiche, con due nomi. Beh, insomma, l'avete capito, ha scritto un libretto molto interessante. Delle Piane, ecco, Delle Piane. È veramente programmatico. La tesi che doveva essere distrutto il vecchio Stato, completamente, per ricostruire lo Stato sulla base del CLN, che erano dei gruppi di iniziativa personale di attivisti. Nascono, è una cosa non facile da capire da chi è fuori da quell'atmosfera. Il CLN nasceva da persone che, specialmente nell'epoca clandestina, rischiavano, e uno si presentava come rappresentante di C, un altro si presentava come rappresentante di un altro partito, mentre nei comitati di liberazione dei grandi enti, centrale, regionale, c'era effettiva la partecipazione, la rappresentanza, negli altri no. Ed è questa la ragione per la quale proprio già a Roma, e in una frase di De Gasperi che ho riferito, c'è l'avvertenza, l'obiezione al CLN, perché nella concezione radicale giacobina del CLN bisognava che, che il CLN sostituisse completamente lo Stato. Ed è qui che è nato il conflitto. Ed è qui che De Gasperi ha operato la famosa mediazione, il trapasso dalla struttura del CLN. Io ho parlato dell'esarchia, qui anche questo è molto interessante. Questi comitati di liberazione, costituiti da due rappresentanti per ogni partito, non tutti i partiti erano rappresentati. Per esempio a Milano erano 7, c'era anche la Sinistra Cristiana, che era rappresentata allora da uno dei membri dell'attuale governo, quello, l'economista di Torino, di cui non ricordo il nome. Lombardini. Questa rappresentava la Sinistra Cristiana accanto alla Democrazia Cristiana, ben inteso, vero? Nel nord c'erano dei repubblicani, nel centro, come è stato ricordato, c'era la Democrazia del Lavoro. Uno dei momenti della crisi dei CLN con questa prospettiva del diritto di governare, questo è il concetto, il CLN rivendica il diritto di tutti i poteri amministrativi, politici, questo è il punto. A un certo punto la crisi nasce, e qui l'amico di Mostati, Cattani, la salunga in materia, Cattani si chiamava, vero? Cattani, sì. Cattani, vero? A un certo punto, per avere la prevalenza nei CLN, hanno creato dei nuovi organi. Per esempio, i comunisti hanno voluto che accanto ai rappresentanti dei partiti ci fossero i rappresentanti delle grandi associazioni di massa, Fronte della Gioventù, Donne e un terzo che adesso non mi ricordo, vero? Il che naturalmente portava al fatto che nelle votazioni del CLN non era un voto solo, erano tre. Di lì è nata la crisi. E questo aspetto giacobino, rivoluzionario CLN, ha avuto la sua rilevanza nel nord, che ha creato poi il concetto del vento del nord nel 45, che doveva eliminare, ridurre, togliere, contrapporsi alla influenza conservatrice sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociale. Questo è il punto fondamentale. Ora il De Gasperi, ha valorizzato l'idea di Togliatti, che quello che contava nella direzione politica era il retroterra delle masse, della rappresentanza. Lo ha aiutato a eliminare il Partito d'Azione, che era un partito di fondamentali repiedi. Il Partito d'Azione era un partito di generali senza truppa, tutte persone intelligenti, tutti ufficiali di Stato Maggiore, tutti pronti a fare dei grandi programmi ma senza base. Questo è stato uno. Poi è stato facile eliminare l'altro piccolo partito, Democrazia del Lavoro, vero? Ma il concetto che è la massa che ha il diritto di decidere sulle direttive dello Stato è di Togliatti. E naturalmente De Gasperi l'ha valorizzato. Dovete notare un particolare che qui non è facile sviluppare. De Gasperi non voleva una Democrazia Cristiana come è diventata. De Gasperi pensava a una Democrazia Cristiana, un piccolo partito consapevole delle sue funzioni, delle sue finalità e anche dei suoi limiti. L'espansione della Democrazia Cristiana in sede elettorale è nata da fatti molteplici, che sono appunto il base del consenso allargato. Una delle cose più oggetto di lepidezza nel mondo di allora, quando è avvenuto questo allargamento, è stato quello dei noti massoni, framassoni, entrati nella Democrazia Cristiana. Era uno spasso per molta gente. In fondo era gente che aveva interesse a entrare nella Democrazia Cristiana perché aveva la base elettorale per essere votati. Quindi sono entrati di convinzione. Il Partito d'Azione si è sciolto e è andato con i suoi elementi più requieti in tutti quanti i partiti. Il Partito d'Azione ha dato ai socialisti, ha dato ai comunisti, ai repubblicani, dove hanno creato tante situazioni requiete. Questo è un punto fondamentale. Ora la rilevanza di De Gasperi è stato questo, ripeto, aiutato da questa concezione della massa, che è tipica della concezione comunistica vero socialista, ha portato a orientarsi verso una struttura di governo nuova, che doveva essere fondata anche su una votazione, su un consenso popolare. E questo naturalmente, di fronte alle due concezioni, quella giacobina, che non corrispondeva neanche al concetto comunista, perché i comunisti sapevano perfettamente che l'Italia era stata assegnata dalla Potsdam all'influenza, e questo è stato fondamentale. Di tutti i complimenti, era una cosa buffa che faceva sorridere i complimenti che i comunisti facevano all'autorità. Io sono stato nel Comitato di Liberazione della Lombardia, e viceversa, cioè perché erano i più pronti, i più docili a rispondere, come credo sia successo in Germania, vero? Dove le autorità alleate trovavano indeterminate persone, le persone più, per esempio in Germania, per quello che riguardava la revisione ideologica, vero? In Germania gli alleati hanno trovato degli forti appoggi in quelli che erano posizioni radicali, vero? Questo è un aspetto. Per quello che riguarda, dunque, altra cosa da chiarire, che è molto importante a proposito, è questo concetto che io ho accennato dell'ina casa. È un aspetto fondamentale della politica della casa italiana, che si chiama anche Fanfani. E a questo proposito, se il tempo non sottrago troppo tempo, posso dire un particolare, vero? L'ina casa è nata col concetto del risparmio obbligatorio che esiste in alcuni paesi anche dell'est, vero? Risparmio obbligatorio per la casa, che ed è nato da un'idea di Fanfani col concetto che doveva essere l'interessato che risparmia, cioè l'operaio che mette da parte, un bel giorno troverà questo materiale. E ricordo con precisione che quando io ho parlato un giorno con Fanfani, avevo rilevato certe variazioni, ma ho detto che era stato il De Gasperi a dirgli di accettare la pressione dei sindacati che i 2/3 dell'assicurazione fosse pagata industriali e solo 1/3 una piccola modesta, ecco, per dire un retroscena. Ora questo, si chiamano case Fanfani, vero? Però la istituzione ufficiale è Istituto Nazionale dell'Assicurazione Casa, cioè era uno risparmio obbligatorio che allora era molto affermato in diversi paesi, adesso sono intorno al 50 circa, vero? Quindi questo trapasso, i CLN, altra cosa molto importante, i CLN controllavano anche le fabbriche, e uno delle fasi della restaurazione è stato anche questo, di restituire i consigli di fabbrica nel concetto tradizionale di rappresentanza popolare, ma di eliminare il CLN di fabbrica, vero? Che era invece di carattere rivoluzionario. C'erano anche quelli di caseggiato. Di caseggiato, certo. Era di caseggiato a Milano esistevano, oltre che di quartiere, anche di caseggiato. Per un secondo punto, la faccenda del Parlamento. Anche qui, mentre parlavo ieri il collega Hutter, io pensavo che una rivista come quella che esiste in Germania, che io leggo con molto interesse, sia nella parte principale che nel feuilleton, Das Parlament, sarebbe impossibile in Italia. In Germania, attraverso questa rivista che è ufficiale, gli aspetti della politica tedesca e le divergenze dei partiti sono esclusivamente presentate attraverso discorsi di parlamentari. Da noi è inconcepibile, perché è lì l'eredità della resistenza dei comitati. I partiti non sono stati assorbiti nel sistema parlamentare, nel senso che siano i deputati, come succede in Germania, che vabbè, sono dei partiti, però sono La voce è questa, è una sede ufficiale, tutti lo sanno, cioè attraverso le famose mozioni sia di fautori del governo sia contrari. Da noi questa resistenza c'è. E ricordo, la mia memoria ormai, essendo della mia vecchiaia, non si assiste, ma in un volume intitolato, un grosso volume, intitolato Il caso italiano, e qui vorrei chiedere l'aiuto di qualcheduno pubblicato da Garzanti, il D'Alia, che attualmente è uno dei membri della Corte Costituzionale, deplorava fortemente, ripeto, è un libro di 4 anni fa, non oltre, vero, Il caso italiano, questa concezione della divisione del potere tra i partiti. È nata dal CLN. Nel Comitato di Liberazione, alla vigilia del passaggio, erano stati dosati con molta cura le nomine alle cariche politiche: prefetto, presidente della deputazione provinciale, sindaco, questore, vicequestore, tutta questa roba qui. Questa mentalità è rimasta in Italia, è rimasta. È nata dal fatto che il partito decide e col concetto che, e qui salta fuori il concetto del diritto naturale molto importante, che lo Stato non ha una sua dignità autonoma. Lo Stato è una struttura che è usata dalle forze sociali, vero? E uno dei problemi più notevoli di De Gasperi è stato proprio questo di restaurare un senso dello Stato. È molto importante questo concetto qui. Il Stato ha la sua dignità, ritornando al concetto che anche questo, diritto naturale e tradizione, chiamiamolo così, della teologia, della filosofia cattolica, è quella che lo Stato rappresenta il bene comune. È una grossa teorizzazione questa del bene comune, che è alla base dello Stato, che non è che condiziona come fine supremo l'attività dei singoli partiti. Quindi, per certo, il Parlamento ha giocato nella azione di De Gasperi, in quanto ha affermato che e quella era la sede, la rappresentanza eletta era la sede della decisione dei problemi fondamentali dello Stato. Questo è il concetto fondamentale. Però non è riuscito in Italia, purtroppo. Però è stato il condizionamento, era questa volontà di rivincita, chiamiamolo pure così, vero? Dei partiti distrutti e sostituiti da un Parlamento, per modo di dire, dall'epoca fascista, vero, da un'assemblea, è stata questo che ha condizionato tutta l'azione, vero? Seit jetzt Herr Alibert sich gemeldet ist, ist aber vielleicht für die deutschen Teilnehmer zweckmäßig, wenn ich versuche, ich will es versuchen, in 4 Punkten das, worum es in dieser Diskussion ging, Ihnen ganz kurz zu erläutern. Im Mittelpunkt steht die Frage, was die Comitati di Liberazione Nazionale, also die Befreiungskomitees, die sich 1943 neben dem noch weiter bestehenden Staat in dem Teil, der nicht von der deutschen Wehrmacht besetzt war, wo sich dann die Republik von Salo installierte, der dort weiter bestand. Und die Frage, sind es diese Komitees, die Herr Bendicholi sehr in die Nähe der jakobinischen Ausschüsse setzt, die nun den gesamten Staatsapparat zerstören sollen, um das von außen neu zu wählen? Und er hat es jetzt in dem Diskussionsbeitrag viel schärfer als in dem Referat gesagt, dass seiner Meinung nach De Gasperi ursprünglich keineswegs an eine Demokratia Christiana als Massenpartei dachte, sondern an eine Demokratia Christiana als eine der vielen kleinen Parteien, dass der Gedanke der Massenpartei von Togliatti, von den Kommunisten herkommt, dann aber von der Demokratia Christiana aufgegriffen wird, praktisch mit den Wahlerfolgen. Er hat dann in einem zweiten Punkt, eigentlich mehr in Parenthese, über den Plan und die Versuche, durch Zwangssparen zum Hausbesitz zu kommen. Also es würden in deutschen Termen die heißen zwangsmäßige Bausparkassen, also Versicherungsmittel, allgemeine Versicherungsmittel mit zwangsmäßiger Bausparkasse, um zu Hauseigentum zu kommen. Dann drittens, diese Chilenen haben auch teilweise Fabriken besetzt, beziehungsweise die Leitung von Fabriken übernommen. Dann ging es wieder darum, sollen die Eigentümer oder sollen die Komitees es machen, und schließlich und zentral um die Rolle des Parlamentes. Und hier ist dann noch durchaus kein Konsens unter den bisherigen Teilnehmern, die sich geäußert haben oder was man an Zurufen hörte. Ich möchte zu dem Punkt nur von der deutschen Seite hinzufügen. Mir scheint, dass Sie vielleicht die deutschen Verhältnisse zu sehr idealisieren. Ich bin aber überzeugt, dass wir heute Nachmittag bei dem Vortrag von Herrn Tenbruck auf diesen Punkt zurückkommen. Über die Zeitschrift Das Parlament als eine Zusammenarbeit aller Parteien sozusagen selbstlos, wer die Interna dort ein bisschen mehr kennt, da wird ebenso um den Kuchen gestritten wie in Italien auch, und die Parteien teilen den Kuchen je nach Macht. Das scheint mir auch gar nicht so schlimm zu sein, das hängt mit Politik zusammen, Politik ist Macht. Ich wollte aber nur die vier Punkte, damit Sie so ungefähr wissen, worum es hier geht, kurz skizziert haben. Herr Aliberti, bitte. Domandare ancora una cosa, se mi permettete, richiamando da parte mia il congresso, ora il poi, se è possibile, ad usare in queste nostre discussioni una necessaria metodologia, non so, cronologica, metodologia come volete, perché non si può parlare insieme di tante cose che riguardano dal 43 al 1970 o ai giorni nostri, ci si rischia di non capire più nulla. Insomma, la storia è fatta di periodi di periodizzazione, se volete, di cronologia. Io vorrei richiamare a questa esigenza, perché se no si finisce con fare delle discussioni che invece di chiarire a noi stessi la situazione corrono il rischio di farci confondere. Cioè, noi dobbiamo parlare di singoli periodi, perciò io ponevo all'inizio la domanda Bedicioglio, ma quando De Gasperi ha fatto questo? Perché se non si dice quando, si finisce a non capire, e si possono prendere delle posizioni che sono poi in fondo contraddittorie, che in un congresso di studiosi di storia meglio, se volete, sono uno storico abituato, penso che la cronologia, la divisione del periodo sia alla base di queste nostre discussioni. Detto questo, sia ben chiaro che io consento pienamente con la relazione fatta dall'amico Bedicioglio che la sintesi, la mediazione tra diverse cose ha dato un esempio di chiarezza, e un vecchio maestro come Bedicioglio merita da parte di tutti noi il pieno riconoscimento della sua abilità di studioso e del suo impegno cristiano e cattolico, e della sua lucidità espositiva, e la sua relazione è stata un esempio del genere. Però nella discussione poi venuta fuori ho avuto l'impressione che non ci fosse questa chiarezza metodologica, cronologica, se volete. Scusa, ripeto. Io vorrei rifarmi a quanto diceva Foscari adesso, per testimoniare ulteriormente il mio apprezzamento a questo convegno, il primo a cui partecipo specificamente, e vedo che dai lavori nostri in fuori, sempre in modo preciso, ieri e anche stamattina, la necessità di definire, di fondare delle categorie interpretative senza le quali si fa la famosa notte scelgiana, quelli di anni in cui prevale il servizio. Io ritengo che questo sia un risultato fondamentale, preciso. Io non sono un critico da questo punto di vista, diversamente da quando dice il professor Mosca, perché penso che una delle esigenze oggettive di questo convegno sia proprio aver messo in evidenza la necessità di chiarire gli strumenti teorici, indagini, le categorie concettuali, i concetti, e non è, mi consentono i colleghi tedeschi, non è questa filosofia, almeno nella parte di Benedetto Croce, non è questa la filosofia. Questo è un momento metodologico fondamentale per intendere la storiografia e la storia. Perché dico ciò? Perché appunto Bendiscioli, nella sua relazione molto equilibrata e esauriente, e nell'intervento soprattutto, ripropone il problema di fondo. Consenso, massa, partito di massa, sono concetti che presuppongono una chiarezza di uso e di impiego, altrimenti si finisce per confondere tutto. E torniamo al discorso che si faceva ieri a proposito di certi altri lavori storiografici. È la Democrazia Cristiana del tempo un partito di massa? No. A meno che non si intenda la massa nel modo più superficiale possibile, cioè come fatto puramente quantitativo. In realtà la Democrazia Cristiana del tempo è un partito di ceti, non è un partito di massa. Questo perché? Perché il partito di massa presuppone, lo diceva bene Bendiscioli, sono d'accordo, una concezione dell'attività, della militanza politica, che è profondamente diversa da quella che invece anima il partito dei cattolici democratici e la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana dell'età decasperiana non è un partito di quadri, lo sappiamo tutti, non ha, cioè, una minoranza organizzata, che è invece il presupposto del partito di massa. Il partito di massa nasce sostanzialmente, me lo insegnate, con le esperienze del movimento operaio, nasce nella società industriale, presuppone una minoranza fortemente centralizzata e al tempo stesso capace di guidare appunto masse verso certi obiettivi rivoluzionari, eccetera. La Democrazia Cristiana, l'importanza fondamentale della Democrazia Cristiana italiana, è di acquisire un consenso, se volete, di massa, ma non è un partito di massa nel senso che l'espressione normalmente viene utilizzata. Sicché ogni interpretazione che prescinde da ciò rischia veramente, appunto, a questo punto di dire, e qui mi consentirà l'amico Bendiscioli, che non sono molto d'accordo, appunto, che De Gasperi prendeva così in prestito delle categorie di Togliatti e le applicava. Questo non è affatto. Nella tradizione, Bendiscioli non lo insegna questo, del partito cattolico, del movimento cattolico italiano, c'è una tradizione fortemente, direi, non dico, come dire, di gruppi, di ceti, di categorie, di articolazioni sociali, contadini, artigiani, professionisti, che contrasta proprio frontalmente con la concezione di un moderno partito di massa. La DC è un partito di ceti. È un partito interclassista, si diceva all'epoca di De Gasperi, non a caso, veniva chiamata la Democrazia Cristiana come un partito interclassista, volendo con ciò sottolineare che non era assolutamente un partito di massa. Questo è per quanto concerne una prestazione, sicché il consenso, e qui sono d'accordo e con quanto diceva Bendiscioli e con quanto diceva anche l'amico Corsini, la leadership dei gasperiani nasce, si modella nella sua attività pragmatica, concreta, prescinde naturalmente poi da ciò che potessero essere i modelli culturali propri di De Gasperi, ma nel suo estrinsecarsi, la leadership degasperiana, col discorso che fa sulle istituzioni, sullo Stato, il senso dello Stato, significa proprio contrastare con la visione che ha invece il partito di massa, per il quale lo Stato è uno strumento da occupare e da gestire. C'è di più, lo scontro che oppone De Gasperi, il centro De Gasperiano. Voi sapete tutti che De Gasperi ha dominato, ha guidato la Democrazia Cristiana, che se ne possa dire, mi spiace che Rossini se ne sia andato perché è una testimonianza è importante, faccio il ben di ciò. De Gasperi non ha avuto sì grossi consensi all'interno del partito, la maggioranza, ma in realtà la forza politica di De Gasperi non era nel partito, era nella capacità politica di De Gasperi di trovare a livello di governo appoggi e collaborazioni. Aggiungo ancora un'altra cosa, una delle ragioni di fondo, questo direi addirittura canonico, lo sappiamo tutti, che oppone De Gasperi a cronache sociali è proprio il partito di massa. Cioè è proprio il rapporto fra Stato e società, fra istituzioni politiche e istituzioni sociali. Per De Gasperi lo Stato era un punto, non dico neutro, non voglio usare questo termine così agnostico, no, ma lo Stato è il momento di realizzazione della volontà politica che viene, se così posso dire, che è la proiezione mediata dei partiti e della volontà sociale, del corpo sociale. A differenza dei Dossettiani era vero esattamente la reciproca, era invece il partito che doveva occupare lo Stato e guidare lo Stato verso certo tipo di riforme. Quindi è proprio nei Dossettiani è possibile configurare un tentativo di dar vita a un partito di massa. Non è assolutamente possibile invece identificare la DC De Gasperiana con il partito di massa. Io poi, sono d'accordo con questo con Bendiscioli, sottolineare il fatto importante, Bendiscioli va detto, io lo vorrei riprendere, del 18 aprile, non si intende, il mio modesto avviso, città De Gasperiana, se noi prescindiamo da un'analisi, sia pure rapida, di quello da porsi come problema fondamentale in quell'epoca, il significato politico del 18 aprile, non è che io venga a farlo. È evidente però che le elezioni politiche del 18 aprile danno vita tutt'altro che a un disegno di restaurazione, al contrario, sono il momento in cui l'economia italiana da una gestione liberista si trasferisce in una gestione fortemente statalizzata, IMU, Cassa del Mezzogiorno, ente di riforma fondiaria, è il momento della riforma fondiaria che è una legge, lo diremo meglio domani pomeriggio, che è una legge sociale, non è una legge economica, guai a interpretare, a leggere la riforma agraria con il parametro, no, del parametro, non so, di una teoria economica, non fu affatto, dal punto di vista economico, ma non fu nemmeno negli obiettivi di coloro che la vogliono. Quindi è un provvedimento di riforma sociale, sicché il quadro politico che emerge dal 48 è un quadro politico riformatore. E vorrei a questo punto aggiungere una cosa di più. Questa capacità di riforma che si estrinseca in certi aspetti e che riceve da parte della classe operaia, voi lo sapete tutti, col piano del lavoro, trovo una rispondenza. C'è Di Vittorio che fa un intervento in cui si dichiara disponibile ad appoggiare le istanze riformatrici, una politica economica attraverso la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la riforma fondiaria e appunto le case, l'edilizia popolare, che viene poi sfrongata rapidamente dai comunisti, proprio dalla leadership gattiana, eccetera, che invece danno a questo piano del lavoro un significato ben diverso. Il 53, allora, la famosa legge Tusca, che cos'è? È il tentativo di De Gasperi di consolidare il quadro politico in questo progetto di riforma, in quanto Bendiscioli ha perfettamente ragione, quando dice di solidificare il centro verso sinistra, cioè di dare a quella vittoria del 18 aprile, conseguite in modo così, secondo vari aspetti che non è il caso di esaminare, di dare una stabilità istituzionale a quel quadro politico onde procedere lungo la strada di queste riforme. Ecco, grazie. Aliberti, ich darf vielleicht gerade für die Deutschen ganz kurz das zusammenfassen. Er hat zunächst eine grundsätzliche Beobachtung entwickelt. Er hat gesagt, es führt zu gar nichts, wenn wir Begriffe benutzen, die in ihrem Inhalt nicht klar umschrieben und klar abgegrenzt sind. Was heißt Consenso? Was heißt Partito di Massa? Democrazia Cristiana sagt, er war, ist keine, kein Partito di Massa. Partito, Massenpartei in diesem Sinne würde bedeuten, eine Gruppierung, deren Ziel es ist, den Staat nur zu erobern, um ihn zu beherrschen. Die Demokratia Christiana hat sich als etwas verstanden, das wir im Deutschen als Volkspartei verstehen würden. Also die Italiener sprechen von Interclassisti, das heißt also eine Partei, die alle Gruppen und Schichten der Gesellschaft umfasst. Dann der zweite Punkt, das ist für diejenigen, die vom deutschen Geschichtsverständnis und von unserer Geschichte herkommen, nicht so ganz leicht zu verstehen, die Bedeutung, die für Italien, sowohl für die aktuelle Politik wie für die historische Beurteilung der Politik, das Problem Staat darstellt. Und seine These ist nun Staat. De Gasperi ist natürlich ein Parteipolitiker, aber De Gasperi schaut und zielt auf den Staat hin. Er will als Staatsmann, er will nicht die Interessen, die Wünsche, den Willen der Partei im Staat durchsetzen, sondern er braucht die Partei zur Unterstützung der Politik, die er vom Staat her machen will. Das heißt also, er ist das Gegenteil von dem, was eine Gruppe um einen damals jungen Abgeordneten Dossetti, man spricht hier in Italien von den Dossettiani, die eigentlich von einer integralistischen theologischen Position herkommen und alles, die eine, wenn ich es mit einem ganz scharfen Ausdruck sagen, eine total katholische Politik in allem und jedem, während De Gasperi hier von etwas kommen würde, was wir mehr mit einer liberalen Politik, einer Abgrenzung von dem, was Staat ist und von dem, was nicht Staat ist. Er hat zum Schluss dann auf die sogenannte Legge Truffa von 1953. 1953 hat die hat De Gasperi, der damals die Mehrheit im Parlament hatte, die Demokratia Christiana hatte 1948 die Mehrheit im Parlament bekommen, hat einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem derjenige, der über 50% der Abgeordneten Sitze hätte, noch zusätzliche Sitze bekommt, ein Drittel zusätzliche Sitze bekommt, um eine stabile Regierung für die Wahlperiode sichern zu lassen. Das hat damals enormes Aufsehen erregt, auch wegen der zeitgeschichtlichen Erinnerung an die Legge Acerba von 1924, mit deren Hilfe damals die Koalitionsregierung Mussolini, noch nicht die Diktatur Mussolini, sondern die Koalitionsregierung Mussolini, ich glaube, Legge Acerba war mit 40%, wie sembra, no? 25 o 40? All'epoca di Mussolini, per 43, sì, 51%, quindi era rispettato il concetto di maggioranza. Von daher war dann bekannt, non si poteva fare il paragone con. Ja, ich sage nicht, dass es das gleiche gewesen ist, sondern ich habe gesagt, nella discussione. Von daher wurde es von den Linksparteien her angegriffen und das ist die Wahlniederlage, über die De Gasperi gestürzt ist. Die Demokratia Christiana hat ihre Mehrheit nicht behaupten können und De Gasperi ist dann zurückgetreten. Scusi, ich habe parlato anche di cose che tu non hai detto, ma mi sembra che per i tedeschi sarebbe di comprendere anche lo sfondo della discussione, sarebbe più importante di sapere di aver tradotto tutte le particolarità. Grazie. Dunque, prima cosa, sono completamente d'accordo con Moscati e devo fare una confessione. Che io a un certo punto, proprio per l'esigenza di mettere in chiaro ordine, dati, eccetera, ho avuto la tentazione di scrivere una bella letterina all'amico Corsini per rinunciare a questo incontro. Bravo! Per rinunciare. Tu hai fatto una relazione ottima, è bene che sia chiarito questo. No, veramente. Noi siamo grandi entusiasti. Era dopo che non avevo capito più, insomma. Devo riconoscere che effettivamente sono un vecchio storico della vecchia maniera, che guarda all'ordine dei fatti e delle date, che è una struttura fondamentale, non è esclusiva ma è fondamentale. Ora, effettivamente, mi riusciva difficile inserire in una relazione troppi dati e troppi riferimenti agli anni e ai mesi in questo caso, però devo riconoscere che è necessario questo, è necessario. Io ho richiamato queste date in correlazione a certi documenti che ho letto, vero? Però è molto importante, su questo non c'è dubbio. Però devo far notare che anche la cronologia è influenzata dalla signora sociologia, dalla interpretazione. Noi siamo malati, la storiografia è interpretativa, per forza, è una riversione della coscienza del presente, però il forzamento, l'interpretazione, che in fondo è l'attribuzione di valore a un determinato fatto, a un determinato momento, è fondamentale. Per questo riguardo devo riconoscere che io non me la sento di seguire le considerazioni filosofico-interpretative del collega Liberti. Io sono, quando io penso a Dossetti, penso alla casa in cui Dossetti era, dove incontravo la Pira, eccetera. Tutte queste costruzioni qui sono fortemente discutibili. Io non me la sento. Le giustifico, io ripeto, richiamo ancora un particolare, avrei potuto anche impostare la relazione. Io potevo impostare la mia relazione storiograficamente, cioè richiamando lo storico A che ha detto questo, lo storico altro che ha interpretato così, lo storico altro che ha interpretato così. De Gasperi non ha valorizzato questo concetto della massa perché era un politico, gli ha permesso in quella determinata struttura di far valere la Democrazia Cristiana, la quale elettoralmente qui è necessario ben chiarire questo concetto di tutti i partiti. C'è una forza di partito e c'è una forza di elettorato. Ora nella Democrazia Cristiana queste due forze, forza di partito e numero degli elettori, di quelli che danno il voto in un candidatore, è diverso. È diverso. Lo dico come personalmente, io non ho avuto il coraggio di entrare nella Democrazia Cristiana. Sono stato arrestato come membro della direzione clandestina, ma di fronte a questo allargamento che si è avuto nel 45 di tutte le persone che hanno sentito che qui c'era una bella copertura, del resto è avvenuto anche in Germania, sono tante storie, voi avete uno Pilsen, cioè, una, come si chiama, le dichiarazioni di salvataggio, Persil, come le chiamate voi? Persil? Persilschein. Ecco, sono interessantissime queste. Ora i giovani non hanno nessuna idea di cosa sono state queste dichiarazioni fatte da tutti i partiti, Partito Comunista compreso. Perché faceva comodo salvare una certa persona, del resto anche i russi hanno salvato dei studiosi atomici veri che hanno perdonato tante cose. Ora questa considerazione, mi permetto di dirlo, vero? Non credo, lì ci sono tante teorizzazioni della Democrazia Cristiana. Io l'ho visto da lontano, ho conosciuto tutta questa brava gente e ho avuto contatti, sono stato anche stimato da loro, tra l'altro questo qui, vero? Perché tutti mi credevano, non so se di sinistra o di destra, la realtà è questa, che io ho in casa e ho conservato accuratamente perlomeno 10 riviste di tendenza della Democrazia Cristiana, a cominciare dall'economia sociale, che dicono che adesso vale 1 milione in America la raccolta delle questioni sociali, dell'economia sociale, che è interessantissimo. Come ad esempio c'è nella Democrazia Cristiana, è nata una rivista di un enorme interesse intitolata Terza Generazione. La prima Sturzo, la seconda De Gasperi e la terza che voleva essere un po' di questi elementi che poi si sono perduti. Alcuni sono diventati pezzi grossi nella comunità europea, vero? Altri sono andati per... Ora, questi sono, erano tutti orientamenti, Versuch, come dicono i tedeschi, vero? Di orientamento, di posizioni. Per esempio questo concetto di che il partito più che il partito doveva doveva vivere localmente organizzandosi organizzando la località dal piccolo, erano di un enorme interesse di terza generazione, vero? Ora, per concludere, vero, ritengo che sia difficile anche dire che la Democrazia non è partito di massa. Come non è partito? Come è partito di citi. Come partito elettorale è partito di massa, ha le masse dietro, cosa volete? Fare un'analisi anche della base elettorale. Certo, è una base elettorale diversa da quella dei partiti cosiddetti operai, anche lì è una bella una definizione, perché il mondo operaio è alla base socialista, alla base comunista, con determinate posizioni, con determinate organizzazioni di forza, vero? Perché non dimentichiamo che c'è un'organizzazione di interessi, le cooperative, vero? Che, ad ogni modo io devo dire che sì, io ritengo modestamente, come persona che ha vissuto gli avvenimenti, che ha letto i libri, che non è ancora venuta la possibilità di una storia democrazia cristiana. Devo fare un'altra confessione come storico. Io sono stato nella Resistenza, sono stato il direttore degli archivi dell'Istituto Nazionale della Resistenza. Io devo dire che non è possibile fare una storia della Resistenza con tutte le implicazioni del passaggio che ho detto, per una ragione molto semplice, che la storia della Resistenza, cioè dei comitati di liberazione, è la storia dei partiti, dei singoli partiti. I partiti hanno tutti avuto un'evoluzione ed aveva una grande rilevanza nel comitato di liberazione se venisse a rappresentare il Partito Comunista il professor Marchesi o se veniva Secchia. Come nel campo, nella stessa Democrazia Cristiana, aveva significato se veniva Marazza o veniva un altro. Ora, siccome questa storia dei partiti non è ancora fatta, la storia sulla base documentaria, soprattutto i partiti che hanno più rilevanza, evidentemente tutta la storiografia che segue dei partiti nell'azione poi politica, tutto questo è sub iudice. Tanto più che se osserviamo le persone che hanno scritto, vengono tutte da giornalismo, usano dei termini che sono in molti casi giornalistici e alcuni hanno dei particolari sentimenti o hanno delle posizioni, come il strano Vagge Bozzo, eccetera, vero? Dai particolari c'è una tendenza alla interpretazione, che secondo me è l'influsso della sociologia indubbiamente sulla ricostruzione del passato. E questo devo dichiarare che io sono della vecchia scuola e quindi ho paura wenn ich soli zu Beginn und zum Schluss gesagt, ich bin ein traditioneller Mensch, ich bin ein sehr bescheidener Historiker, ich versuche nur Fakten zu sagen und lasse mich nicht auf die schwierigen Dinge der Theoriebildung und der Modellabgrenzung ein. Wobei für die deutschen Teilnehmer noch hinzugefügt werden darf, Herr Wendy Scholli hat nicht nur das, worüber er spricht, jetzt in einem Referat zusammengestellt, sondern hat die Dinge von der Resistenzbewegung, von den Comitati, von den CLN her selbst aktiv, und zwar nicht unten, sondern schon in Positionen, in denen er etwas sehen konnte und auch führen konnte. Er war Mitglied des geheimen Vorstandes der Demokratie. Wie gesagt, ist zurückzukommen, weil es ist schon fast eine halbe Stunde zurückgeblieben. Ich kann jetzt also auf das, was Benny Scholli gesagt hat, nicht eingehen, weil ich mir die anderen Sachen notiert habe. Aber das, was der Aliberti gesagt hat zum Thema diese Legge Acerbo und dann die Legge Tour. Er hat davon Legge Acerbo nicht gesprochen, ich habe davon. Sie sagen dann, ich will auch nicht sagen, dass man da unbedingt eine Parallele ziehen kann, aber ich möchte zu bedenken geben, dass zum Beispiel bei der Legge Acerbo, dass der Partito Popolare sich geweigert hat, dafür zu stimmen. Und dass zum Beispiel danach, bei der Legge Truffa, dass sie das zum Beispiel als ein Mittel zur Erhaltung oder zur Stabilisierung der staatstragenden Parteien. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dann haben Sie nicht richtig verstanden, er hat gesagt, das Wahlgesetz von 1953, Legislativwahl, ist eine polemische Vokabel. Eine Vokabel, wenn wir die benutzen, sind wir ja mitten in der Parteipolemik. Das Wahlgesetz von 1953 sollte nicht eine staatstragende Partei stabilisieren, sollte die Partei, die die Mehrheit bereits in einer normalen Wahl im Verhältniswahlrecht bekommen hatte, dieser Partei ermöglichen, durch zusätzliche Sitze so viele Sitze zu haben, damit nicht das passiert, was auch mit Dieter Helmut Schmidt hat, dass, wenn eine wichtige Abstimmung ist, die Abgeordneten auf der Tragbare reingebracht werden müssen, weil er nur eine Mehrheit von 4 Abgeordneten hat. Das ist der Hintergrund von 1953 gewesen. Und hier Ihre Bemerkung von 1924, gerade die Frage, wie groß der Anteil wäre, ob 25% oder 40% des 1924 innerhalb der Popularin-Partei ja Gegenstand der schwierigen Überlegungen gewesen, können wir zustimmen oder können wir nicht zustimmen? Und da hat es ja ein Auf und Ab gegeben. Das ist ja nicht, die Popularen haben keineswegs, das konnten sie auch gar nicht von Anfang an dagegen stimmen, denn ursprünglich, als das Ganze anfing, waren sie ja noch mit in der Regierung drin. Der rechte Flügel ist dann ja ausgeschieden. Also der Vergleich, glaube ich, das. Nein, der Vergleich ist deshalb überflüssig, weil nur ich, um den Deutschen zu erklären, was 1953 gewesen ist, von Leja Acerbo etwas gesagt habe. Ich bin gern, wir könnten das machen, aber das ist nicht Thema hier. Ja, ich weiß nicht. Warum meinen Sie denn das? Ich würde nur sagen, mir ist aufgefallen, also ohne jetzt auch, ich will auch keine Parallele ziehen, weil das geht unter keinen Umständen. Aber mir ist nur aufgefallen, die unterschiedliche Behandlung dieser beiden Gesetze, dieser beiden Gesetzgebungen oder Wahlrechtsänderungen. Während man zum Beispiel von 1924, also auch die Politik des Partito Popolare verteidigt, geht man dann hinzu, das ja mehr oder weniger zu rechtfertigen, 1953, was passiert ist. Also ich will keine Parallele ziehen, nur zu bedenken geben, wie unterschiedlich das jetzt hier in dem Kreis behandelt wird. Und meiner Meinung nach ist eine Wahlrechtsänderung, die einer Partei mit künstlichen Mitteln, also 2/3 der Sitze, verschafft, ist für mich noch lange nicht legitim. Posso rispondere in un attimo? Sì, vorrei parlare prima, altrimenti si perde. Ripeto, qui c'è uno che li ha vissuti sti avvenimenti e che li ha poi letti, mentre credo di gente che viveva in pieno nel 24 fino a poco. Prima cosa. Parliamo di quella della elezione del 52, del 53, vero? La sconfitta del piano Gasperi è nata dal fatto che una parte dei socialdemocratici, dei repubblicani, non ha partecipato alla votazione con d'accordo ai partiti e è stato creato apposta per questo periodo qui un partito interniato attorno a De Gasperi, a Parri, la famosa Unione Popolare, che ha preso 700.000 voti e sono stati questi 700.000 voti che hanno tolto. Questa prima cosa. L'altra importanza, mi pare fondamentale importanza, quando si fanno i confronti tra 24 eccetera, è l'atmosfera che è diversa. L'atmosfera è diversa, c'era una pressione. Qui è tutto un discorso da fare, ci vorrebbe mezz'ora per parlare, per chiarire l'atmosfera del 24, vero? E le pressioni che sui poveri democristiani sono venute da fuori, perché? Perché c'era il concetto che attraverso questa votazione si veniva ad assicurare una certa stabilità della politica, anche, cioè eliminare l'elemento rivoluzionario del partito fascista, vero? Questo è stato, e poi la differenza della possibilità di votazioni. Nel 24 ci sono state le pressioni molto forti, vero? Va bene, mentre invece nel 54 nessuno può dire che ci siano state delle. Ma sono i termini di legge che sono profondamente sono diversi. Sono due cose, ma io pensavo che la configurazione giuridica di queste due operazioni è fondamentalmente diversa, perché primo, nella legge Acerbo e nelle elezioni del 24 non c'era un apparentamento di partiti, era stata presentata una unica lista, va bene, vero, che anche se si chiamava, non mi ricordo più che cosa, cos'era il blocco nazionale, il blocco nazionale era in realtà una lista del partito nazionale fascista, in cui avevano finito per entrare anche i liberali, cattolici e via dicendo. Ora lì perciò era, va bene, vero, la ricerca di una maggioranza in Parlamento da parte di un partito, anche se non aveva ottenuto la maggioranza dei voti da parte degli elettori. Nella operazione De Gasperi, la cosiddetta legge truffa, termine polemico, creato proprio dalle opposizioni, la configurazione giuridica era completamente diversa, perché i partiti andavano ciascuno con la propria fisionomia e con la propria lista, solo erano apparentati agli effetti di ottenere quella determinata minoranza, per cui non c'era la cancellazione della pluralità, politica e la cancellazione della pluralità dei partiti. C'era un apparentamento agli effetti. Secondo, ed ho finito, la differenza essenziale era quella del premio di maggioranza, perché altro è portare un premio di maggioranza che dal 33 ti sposta al 51%, altro è chiedere un premio di maggioranza che dal 51% va al 54 e al 55, per cui la finalità era completamente diversa. Io sono stato uno degli unici del Partito Liberale che non ho partecipato ugualmente per motivi di principio a questa vicenda, però devo riconoscere che la finalità era diversa. Lì si trattava di creare e di prendere in mano artificiosamente lo Stato, qui si trattava di creare un quadro unitario di partiti che avevano delle basi comuni per dare una stabilità di governo e di amministrazione allo Stato italiano. Non so se sono stato chiaro. Jetzt haben wir noch machen, weil die Diskussion um Lecce Acerbo und Lecce Trova hier so hohe Wellen geschlagen hat. In Deutschland haben wir ja gewisse Vergleichbarkeit. Und zwar nicht nur die 5%-Klausel, die auch den Effekt hat, zu stabilisieren. Und wir haben in England das Mehrheitswahlrecht, das ja gelegentlich von Politologen sehr stark geprägt wird, weil es stabilisiert mit dem Effekt, dass sie vor einer Reihe von Jahren konservative Partei die Minderheit der Stimmen, aber die Mehrheit der Sitze hatte. Wir hatten aber in der Bundesrepublik auch einmal eine Zeit lang das sogenannte Grabenwahlrecht, das war in Schleswig-Holstein, introduziert und war damals die sozialdemokratische Mehrheit des Landes in den ersten Jahren stabilisiert. Wir haben dann, jetzt lässt sich mein Gedächtnis etwas im Stich, als Krone Fraktionsführer wurde. Was ich weiß nicht, 55 war eine seiner ersten Aktionen, die Probe zu machen, kann man das nicht auch im Bundestag machen, um dem Sieger im Bundestagswahlkampf die Position möglichst zu stabilisieren. Das ist an der FDP gescheitert, weil die wusste, das geht also auf unsere, es geht dabei auf unseren Kopf. Verzeihen Sie, dass ich abgeschweift bin, aber es scheint mir doch ganz interessant zu sein, dass wir auch in Deutschland zumindest theoretisch solche Überlegungen mal angestellt haben. Dankeschön. Ja, ich habe eine sehr allgemeine Frage, die sich an keinen bestimmten Referenten richtet. Eigentlich auch nicht einmal sich auf das bezieht, was gesagt ist, sondern in gewissem Sinne auf das, was nicht gesagt worden ist. Ich könnte es vielleicht am wenigsten anschließen an Ihre Ausführungen, Herr Krischel, als Sie uns so lebhaft dargestellt haben, die Situation der Befreiungskomitees und der Resistenz als eines bedeutenden Faktors in der Enese, der jetzigen Demokratie. Ich will aber die Frage mal allgemeiner formulieren. Haben die Dinge nicht alle noch eine Vorgeschichte? Gehen sie nicht weiter zurück? Und muss man das sich gerade dort bedenken, wo man Italien und Deutschland in den Blick nimmt? zwei Völker, beide verspätete Staatsnationen. Beide waren sie zuerst Kulturnationen und aus der Kulturnation ist in beiden Fällen erst mit Verspätung